difficile, lo so, però è mio dono. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce poi più lenta, violenta sincera. Musica più lenta che pace che spera, veloce poi più lenta, violenta sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Che giorno è oggi? 7 giugno, mercoledì 2006. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo su queste cose qua, eh. Oggi andiamo un po' decisi. O magari cominciamo così, poi dopo svoltiamo. Un po' a destra, un po' a sinistra. Ma adesso andiamo molto decisi. Simo, dedico Passo Felino ai due ragazzi della mia vita, il mio amore Dani e il mio amicone Tommy. Sono Michael del Colubro, vorrei ascoltare Passo Felino e la dedico a mio cugino che si è fatto male sul gradino. Perché il nostro passo a volte è molto determinato, altre volte è più dondolante, sognante, ma adesso è determinato. We'll be right back. spaventate sempre. Di fronte a tutto ciò che è diverso. Dai e poi giù le mani. Se questo suono diverso vi potrà dare qualche nuova forte sensazione. Dovete abbandonarvi adesso. Sì, adesso, però dicevo ad esso, a quello lì, ti abbandoni a quello lì, adesso, quindi a e adesso. Quindi non dopo. Abbandonati a tempo. Appiccia un po'. Il cammino di Gigi D'Agostino ogni giorno alle 18 prova a dare qualche indicazione, prova a indicarvi qualche sentiero nuovo, diverso, o che magari conoscete già. Ci prova. Voglio dedicare pigia a mio cugino Paolo. Il suo cuore sia sempre lento e violento. Pino da Pianezza, Torino. quando il vostro ascolto incontra un suono diverso. Non deve aver paura. Non deve sentirsi indifeso. Siamo due amici di Lanuvio, volevamo ascoltare la canzone Non giochiamo. Dedico Non giochiamo ad Alessio, il re degli altri mondi, a DJ Francesco e il DJ più fresco, e a mio fratello DJ Febix. Vorrei dedicare Ginnastica mentale a tutti gli uomini senza cervello. Camilla da Ovada. Sono Inco da Vares. Vorrei dedicare Non giochiamo a tutti gli amanti del vento violento. Sono Anna Rosa. Vorrei dedicare Non giochiamo a Giancarlo, un fratello che oltre a far bordello suona con il cuore e con la mente e non gioca per niente. Ti voglio bene. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Se ci avessero nutrito sempre e solo con i fiori di zucca, se ci avessero messo a disposizione sempre e solo fiori di zucca, oggi ci darebbe fastidio qualsiasi altro tipo di cibo. Come si fa a non capire questo concetto banalissimo? A cosa? Dai un poco sta cat, cat, cat, sa, cat, cat, cat, sa. Quello che cerco di trasmettere con il cammino, con i sentieri del cammino, è che bisogna stare attenti a cosa ci dicono. Dobbiamo andare un po' più in profondità quando vogliamo sapere le cose. Bisogna stare attenti al giornalismo, perché il più delle volte, la maggior parte delle volte, quasi sempre, non fa dell'informazione, ma si preoccupa ogni giorno di mantenerci all'oscuro su fatti clamorosi a noi sconosciuti. Bogacci via questo. Siamo Sami e Franci di Fumone. Fumone è un posto, mi hanno detto che c'è gente un po'. Vogliamo dedicare lo sbaglio a tutti i piselloni d'Italia. Capito? Ma piselloni nel senso di vegetariani. Sono Viviana, volevo dedicare lo sbaglio ad un mio amico per tirarlo su di morale, visto che è stato bocciato l'esame di teoria di scuola guida. Voglio dedicare lo sbaglio al mio amico Dennis per fargli capire che certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Quindi non preoccuparti, impara a superarli e vedrai che raggiungerai ciò che vuoi. Sono Giuseppe da Cassino, volevo dedicare lo sbaglio alle mie grandi amiche Deborah e Fra, che mi rompono sempre i coglioni quando sono affaccendato con la mia Ale, perché tutti possono sbagliare. È poco chiaro, però c'è scritto così. Vorrei dedicare lo sbaglio a una persona molto speciale che mi sta a cuore, il mio DJ Peppe Reset. Gli voglio tanto bene, la tua Giusy. Dedico lo sbaglio al mio amore Megan, o Megan, che è americana, perché certi problemi non sono un dramma. Spero che un giorno possiamo stare insieme. Sono Alfredo da Carmagnola, volevo dedicare lo sbaglio alla mia cara amica Ursula, a cui voglio tanto bene. Vorrei dedicare lo sbaglio ai miei amici Diego, Paolo e Stefano di Torrice, o Torrice, quello lì. Sono Flupi, da Napoli. Vorrei dedicare al mio amore la tua splendida canzone Lo sbaglio e dirgli che non sbaglia a stare con me, magari per sempre. Dedico lo sbaglio a Superpante, che mi sta vicino in questo periodo, Logan. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sto solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa qual è la soglia per poter dire diamoci un taglio. Chi lo sa, se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Cammino tra qualche minuto si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Mari 87. Volevo dedicare la canzone Angel a un raga molto speciale che mi sta facendo impazzire. Spero diventerà presto il mio raga. Inchia, rego raga. Sono Casia, vorrei dedicare Angel al mio pistolino Dudu da da da. È forte. Sono Gio da Matera, vorrei dedicare Angel al mio angelo Roxy Ta. Sono Valeria da Milano, vorrei dedicare Angel al mio angioletto, anzi angoletto. Voglio passare un altro anno e mezzo e anche oltre con te. Ti amo. Sono Francesco, volevo dedicare Angel a Marika. Sai, quando stavo con lei gliela dedicavo sempre, solo per dirgli che per me rimarrà sempre il mio angelo. Sono Antonella, detta Mimì. Vorrei dedicare Angel alla mia migliore amica che ho conosciuto nella family. Si chiama Areta, Maria Rosa. Lei mi ha aiutata a superare dei momenti difficili, ero sola, senza un'amica che poteva capirmi. Adesso ho trovato un angelo nel forum che mi ha dato tanto coraggio. Spero di incontrarla. Un abbraccio alla family e un abbraccio anche a te. Sono Stefano, volevo dedicare Angel alla mia piccola Ele, perché l'amo ed è davvero un angelo. Vorrei dedicare Angel a Salvo, la persona a cui voglio un mondo di bene. Vorrei dedicare Angel al mio amore, perché ogni volta che ascoltiamo questa canzone ci stringiamo forte forte e restiamo in silenzio. Per Olghi, dal tuo lupino. Vorrei dedicare Angel alla ragazza che scaglia su di me un treno emotivo ogni volta che mi chiama amore. Vale, ti amo, il tuo tesoro, Anto. Vorrei dedicare Angel alla fantastica Lisa, dicendogli che le voglio davvero bene, Guido. Sono Gigi, da Castrovillari. Vorrei dedicare Angel alla mia ragazza Chiara, che amo tanto. Drops and sono anima ribelle. Vorrei dedicare paura e nobiltà a tutti i miei amici e a te, che hai una bella voce. Grazie. E mi piace quando allunghi la fine delle parole. Tipo, basta niente per creare un prepotente. Tanti soldi e il successo tra la gente. E la paura di non possedere più niente. Questo basta infettare la sua mente. Di traverso. Un bel giorno ho incontrato un uomo strano. Stava fermo e mi guardava da lontano. Non so perché, ma gli vado a parlare. Buon uomo, perché mi sta a guardare? Non guardavo né te né le montagne, né il cielo, neanche il mare. Quant'altro puoi guardare? Ciò che guardo è una cosa indefinita. Sto guardando il miracolo della vita. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti aspetta qui alle 18. Ma se alle 18 non ci sei, io vado. Perché non abbiamo tempo da perdere. Che non abbiamo tempo da perdere. Cassi ancora insieme. Eccotele. Sono Giuseppe. Vorrei dedicare ancora insieme ad Alessandra, la mia ragazza, per dirgli che è la cosa più bella che ho trovato durante il mio cammino. Ti amo. Giù. Giuseppe, da Isernia. Vorrei ascoltare il remix di Again e dedicarlo a Luana. Sono Marta da Cagliari. Volevo dedicarti Again. A me e grazie. Come si fa a stare fermi? Appuntamento in discoteca. Sabato 10 giugno 2006, e cioè questo sabato. Ci vediamo alla discoteca La Duchessa. Billy e Oblì, Kickass. Giusto così, sì. Via Marsicana 4, Corvaro, in provincia di Rieti. Arrivate presto perché la musica comincia alle 23:30. Dedicare Cammino alla mia coalina. Sarà perché sono 4 mesi che camminiamo insieme in un sentiero d'amore. Sono Orus. Dedico il cammino a Nicole perché le voglio troppo bene. Sono Davide Tanz da Trezzo sull'Adda. Voglio dedicare a Gigi D'Agostino, grazie, la stupenda Cammino. Astornato da una storia che non ha più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, nel sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio, la frutta nera più oramai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Sono santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che...

vorrei dedicare il remix di Eye in the Sky degli Alan Parsons a Susanna e Daniele, perché sabato sera a Piombino questa canzone ci ha emotivamente distrutti. Giovo 87. E questa non la posso suonare, perché molti dei brani o bootleg che creo nella mia tana li conservo gelosamente solo ed esclusivamente per i live, per quei momenti da condividere insieme a voi in giro, in quelle serate speciali che poi conserviamo con grande sentimento nella nostra memoria. Sono Felipe da Monopoli. Voglio dedicare Don't Cry Tonight. Don't Cry Tonight. Quello lì. A tutta la gente che non piange per amore, ma soffre per orgoglio. Find the light and I'll say share away. If you never, never let me go with every melody. And you hope to wear the living just my life. If you really love the target and back to my fantasy, me too. When you need to get the feathers just today, by the time there is a past above a human being, I'd like to feel what is my life. If you really could at least maybe at my fantasy and me. Don't let me go. Vorrei dedicare Passo Folk a una persona molto speciale, Ghiri Gramaglia Grattapaglia, sei il migliore, DJ Sismo 89. Vabbè. Sono Luca, vorrei dedicare Passo Folk ai miei amici Luca, Claudio e Riccardo e dirgli di stare calmi perché tengo una Jeep. Ciao e grazie. Prego. Vorrei dedicare Passo Folk a tutti i romagnoli che ascoltano la tua dance. Come sai, in Romagna è nato folklore e tu sei il nostro folklorista pensatore. Pevaro, Cesena. Vorrei dedicare Passo Folk alla mia squadra di calcetto, gli Indecisi. Mandaci gli auguri per arrivare in finale. E auguri. Ma se siete indecisi, sarà difficile che ci arriverete. Dedico Passo Folk ai vetri della mia stanza che tutte le volte rischiano l'esplosione. Dani. Deep riding, go nothing, not deep riding, thing I go nothing, not deep riding, thing I go nothing, not deep riding, thing I go nothing, not deep riding, thing I go. È ora di finirla, sigla. Sì.